muovono da un presupposto, che è il principio per cui l'amministrazione ha sempre il potere di variare l'opera in corso di esecuzione, il cosiddetto ius variandi. Entro determinati limiti, questo potere, a questo potere corrisponde un obbligo dell'impresa di assoggettarsi alle modifiche. Ho già accennato in occasioni passate che le varianti corrispondevano a un malcostume, nel senso che erano lo strumento con cui le imprese si accordavano con i funzionari illecitamente per recuperare in fase di esecuzione perdite altrimenti inevitabili al momento dell'offerta, di modo che l'impresa si aggiudicava l'appalto con ribassi molto forti, dopo, in corso di esecuzione si accordava illecitamente col funzionario che accordava, o con l'amministratore che accordava varianti a prezzi assolutamente non competitivi, chiaramente vantaggiosi per l'impresa, in questo modo si assisteva al malcostume di appalti che in corso di esecuzione venivano moltiplicati quanto a valore per due o per tre. Per questa ragione, il legislatore del 1994 ha preteso di imporre rigidi limiti alle varianti. Questi limiti sono codificati nell'articolo 25 della legge Merloni, il cui comma bibis è stato aggiunto, e vedremo tra poco perché. Originariamente i casi di variante nella legge Merloni erano quattro, che tra poco vedremo. Accanto alla variante vera e propria, a cui corrisponde tanto una modifica dell'opera quanto una modifica di valore, vi sono delle modifiche minori che per definizione legislativa, per definizione dell'articolo 25, non sono da considerarsi varianti in senso proprio. Sono di due tipi. La prima è una modifica, diciamo così, interna tra le categoria di cui si compone l'opera, una sorta di assestamento in corso d'opera per cui viene tolta una parte di una certa lavorazione e aggiunta un'altra in modo che rimanga invariato il prezzo complessivo e in modo che nessuna delle categorie muti di una percentuale superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per gli altri lavori. Ripeto, sono modifiche non di valore complessivo, ma di una ciascuna lavorazione. Per cui se, esempio grossolano, si stabilisce che non tutti gli appartamenti delle case popolari abbiano la derivazione di citofono, in compenso con il ricavato si inserisce un sistema di videosorveglianza della portineria. All'interno delle lavorazioni si rimane nei limiti della percentuale, videosorveglianza e negli impianti, citofono oppure una lavorazione diversa, si rimane entro questi limiti il valore totale dell'opera non muta. Evidentemente non deve essere un qualche cosa che stravolga l'opera. La seconda tipo di modifica che non costituisce variante, quindi non è soggetta ai limiti che tra poco vedremo di quell'articolo 25, è invece la possibilità per il direttore dei lavori di consentire modifiche all'opera che non superino il 5% dell'importo totale. L'amministrazione riconosce al direttore dei lavori un potere di intervenire in corso d'opera con piccoli aggiustamenti tali da non alterare oltre il 5% il valore dell'opera, quindi sostanzialmente questo 5% è posto a disposizione del direttore dei lavori per far procedere debitamente l'appalto e per giungere ad un'esecuzione in corso d'opera. Fuori da queste due ipotesi, qualsiasi modifica entra nell'ambito, nella nozione di variante ed è quindi soggetta ai limiti di quell'articolo 25. L'articolo prevede innanzitutto le esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari. Interviene una nuova normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro che impone determinati accorgimenti, evidentemente la variante è obbligatoria. Una nuova normativa che preclude l'utilizzo di un certo materiale in costruzione, e la variante lì è non solo possibile, ma evidentemente necessaria. La lettera B prevede cause impreviste e imprevedibili accertate in modo stabilito dal regolamento di quell'articolo 3, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possano determinare significativi miglioramenti. In questo secondo caso senza aumento di costo, nel primo caso le cause impreviste e imprevedibili invece con la possibilità di aumento di costo. Salto il BBIS per il momento. Comma 1 lettera C, casi previsti dall'articolo 1664 secondo comma del codice civile sulla sorpresa geologica e idrogeologica, di manifestarsi di errori o omissioni nel progetto esecutivo. Evidentemente il confine tra la lettera B, cause impreviste e imprevedibili, e la lettera D, errore o omissione del progetto esecutivo, può essere talvolta labile, perché occorre valutare se, ponendosi ex ante, il progettista dovesse o no, con l'ordinaria diligenza, prevedere una determinata circostanza tale che la mancata previsione si sia tradotta o no in un errore progettuale. In un caso ci sarà la causa imprevista e imprevedibile, nell'altra l'errore progettuale. È un quadro abbastanza restrittivo, anche perché in caso di errore progettuale, ai sensi dell'articolo, sempre l'articolo 25,4, ove la variante per errore progettuale ecceda il quinto dell'importo originario del contratto, non si può procedere a variante, ma bisogna risolvere il contratto pagando all'impresa il 10% dei lavori rimanenti e procedere ad una rinnovazione integrale della procedura. Questa previsione non v'è invece per la causa imprevista e imprevedibile. In più, quando si verifica un errore progettuale, l'amministrazione evidentemente è tenuta ad avviare la relativa azione di responsabilità nei confronti del progettista, il quale deve aver prodotto una garanzia a tal fine al momento della stipula dell'incarico. Che cosa sia l'errore progettuale? Poi definito dal comma 5 bis e risponde in generale al concetto che abitualmente si dà all'errore progettuale, compresa la omissione nella valutazione di opere da eseguirsi, senza arrivare all'esempio di scuola, insomma, è quello che l'esempio che abbiamo fatto due, tre incontri or sono, il progettista che non aveva valutato la situazione geologica del letto del fiume dove dovevano essere realizzati gli argini, era evidentemente un errore progettuale, non una causa imprevista e imprevedibile, dal che la risoluzione del contratto, che invece non vi sarebbe stata ove effettivamente si fosse trattato di causa imprevista e imprevedibile a monte della variante. Questo contesto, dicevo, abbastanza statico, abbastanza rigoroso, ha subito un'incrinatura con il comma BBIS introdotto con la Merloni-Ter, comma che trova la sua origine storica nei rinvenimenti massicci di amianto in occasione di interventi di ristrutturazione. Perché era difficile qualificare l'amianto come causa imprevista e imprevedibile? Le amministrazioni avrebbero dovuto sapere di avere parti in amianto nelle strutture su cui si doveva intervenire, ma non lo si poteva attribuire al progettista che magari aveva elaborato il proprio progetto sulla base delle verifiche, sulla base della documentazione progettuale a disposizione dell'amministrazione da cui non risultava l'amianto e poi si trova l'amianto, che non è imprevista e imprevedibile, nel senso che non poteva essere prevista dal progettista, ma doveva essere prevista dalla stazione appaltante, perché storicamente era avvenuto che qualcuno avesse realizzato quelle opere in amianto. Per questo la Meloni Terra ha introdotto la possibilità di variante per risolvere lo stallo che altrimenti si creava di fronte a questo rinvenimento di amianto, innanzi al quale non si poteva procedere con variante, non si poteva qualificare l'errore progettuale e si rimaneva incastrati. Evidentemente, una volta che si introduce un cuneo nel rigore, si passa dalla causa imprevista e prevedibile al rinvenimento. Eventi inerenti alla natura o specificità dei beni sui quali si interviene, verificati in corso d'opera, a quel punto si apre un po' a tutto. Si apre alla friabilità della struttura, si apre all'ammaloramento riscontrato nelle opere, quindi si è reintrodotto un ambito più ampio di ammissibilità della riserva. Questo è per quanto riguarda i limiti di ammissibilità delle riserve, quindi le riserve sono ammissibili entro questi limiti. Dal punto di vista dell'impresa abbiamo detto al diritto dell'amministrazione di variare l'opera, diritto che esiste purché si sia in questi presupposti, risponde un obbligo dell'impresa e i limiti dell'obbligo sono delineati all'articolo 134 del regolamento dell'IPR 554-99. Quindi l'articolo 25 è più improntato su delimitare l'operato dell'amministrazione, il 134 è più diretto a valutare quali sono le conseguenze per l'impresa, anche se ovviamente ci sono delle previsioni, soprattutto procedurali, anche nel 134 che viceversa operano nei confronti della stazione appaltante. Innanzitutto l'articolo 134 pone un principio che l'impresa non può spontaneamente apportare modifiche all'opera. Quindi lo ius variandi ce l'ha l'amministrazione, ma non ce l'ha l'impresa. Se l'impresa apporta varianti che non siano state disposte al direttore dei lavori e preventivamente approvate dalla stazione appaltante, ne risponde. Che significa che se l'opera variata non soddisfa l'amministrazione, va rifatta come da progetto. Se soddisfa l'amministrazione, l'impresa non avrà comunque titolo alcunché. Viceversa, se la variante è richiesta dall'amministrazione, quindi disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dal dirigente responsabile, allora l'impresa sarà tenuta a eseguire l'opera così come variata, a importo corrispondentemente variato. Questo obbligo è a sua volta senza limiti? No, vi sono due parametri. Il primo è quantitativo e il secondo è qualitativo. Quello quantitativo è rappresentato dal 20%, un quinto. Abbiamo visto che nel caso di errore progettuale la variante che superi un quinto d'obbligo deve portare alla risoluzione. In tutti gli altri casi la variante che supera un quinto d'obbligo, il cosiddetto quinto d'obbligo, cioè il quinto del valore totale entro cui l'impresa è obbligata, non porta automaticamente alla risoluzione, ma consente all'impresa di dettare le proprie condizioni. Io accetto di eseguire la variazione che supera un quinto a queste condizioni, di prezzo, di tempi, di modalità di esecuzione e quant'altro. Su questa posizione dell'impresa l'amministrazione deve esprimere il proprio consenso o dissenso. Se non v'è consenso si dovrà risolvere il contratto o rinunciare alla variante. Se v'è consenso il contratto subisce un'innovazione per quella parte, una variazione. Il secondo limite adesso è qualitativo. L'appaltatore, articolo 134,4 del DPR, ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante che il direttore dei lavori gli abbia ordinato, purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto. Quindi, al di là della quantità, vi è anche una possibilità di stravolgimento dell'opera che l'impresa ha diritto di rifiutare. Non si tratta di un caso fuori dalla realtà. Capita che la stazione appaltante indica un appalto per una determinata opera, la giudichi, l'opera viene ritenuta non più utile e quindi si procede a un nuovo progetto, si pretende di far passare questo nuovo progetto per variante, magari perché l'importo è prossimo a quello dell'opera originale. Si tratta di una violazione dell'articolo 134,4, ma anche di una violazione quantitativa. Perché notate che molto spesso le stazioni appaltanti pretendono di qualificare come importo della variante la mera differenza del totale. L'opera costava 100 prima, tolgo 20, aggiungo 21, l'opera ora costa 101, quindi la variante è di un centesimo. Se voi siete da parte dell'impresa, che dite, è vero che le modifiche non stravolgono e quindi non posso invocare il 134,4, ma qui mi hanno ad esempio tolto il 20% dell'opera più remunerativa e mi hanno messo un 21% in più di opere assolutamente in perdita, secondo i prezzi che noi stessi abbiamo fatto. Dobbiamo assecondare questa volontà dell'amministrazione? Di più, l'amministrazione ci dice che variando l'opera solo dell'1% non ci dà neanche un giorno di proroga rispetto ai termini di esecuzione. Dobbiamo assecondare questa posizione? Che cosa mi dite? Niente. Perché lei dice quello che rileva la somma. No, quello che dice, volevo dire che quando parlo che non mutino sostanzialmente la natura dei lavori, io posso parlare diciamo, dei lavori simili, sono escavazioni su terreni con consistenza diversa, e ultimamente si dona nella situazione di mezza giornata e quindi avremo marginalità è una perdita. Con la natura dei lavori il fatto è similare, credo. Sì. Vediamo di fare un esempio concreto. L'amministrazione prevede la realizzazione di un'integrale ristrutturazione di una area, un padiglione fieristico. Previsto pareti, pavimenti e impianti. Si dice i pavimenti, era prevista una lavorazione di livellamento del pavimento e posa di mochette per il 20%. Io stralcio questa lavorazione, non devi più fare la lavorazione in mochette, mi fai una posa di piastrelle che costa il 5% in più della lavorazione. siamo nell'ambito addirittura del 5% che la DL può disporre. Altro esempio, non mi fai il pavimento in moquette, me lo lascia al grezzo e in compenso mi realizzi le aree verde esterne. Quindi non ti faccio fare la parte interna, se mi lascia il grezzo mi fai la parte esterna. Costo invariato. Non ti do neanche un giorno in più di proroga. Io credo che per quanto questo argomento sia difficile da fare comprendere, credo che vi siano tutta una serie di ragioni che meritino di condurre al calcolo del valore della variante come somma algebrica, non aritmetica. Quindi se io aggiungo 10 e tolgo 15, non sto facendo una variante del 5, ma sto facendo una variante di 25. Perché? Innanzitutto perché abbiamo detto che non si considera variante la modifica di categoria all'interno delle varie voci a spesa totale inalterata, solo entro i limiti del 10% per alcuni lavori e del 5% per altri. Cioè io posso modificare i pavimenti, ma su 100 metri di pavimento posso modificarne 5 o 10 a seconda dei lavori. Non posso togliere tutta la lavorazione, perché a quel punto per definizione questa è una variante. Quindi significa che per il legislatore il fatto che il prezzo rimanga uguale non significa che non ci sia una variante. Anzi, dice che non c'è variante solo se quella categoria di lavorazioni viene modificata solo in modo molto modesto, 10%. Di più, mi dice, articolo 134, comma 9, le perizie di variante correlate ai pareri e autorizzazioni sono approvate dall'organo decisionale della stazione appaltante su parere dell'organo che ha approvato il progetto, qualora comporti una necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista. Per cui non è vero che la variante è necessariamente una modifica di spesa, può anche avere spesa invariata, ma sempre variante è. E del resto, se consideriamo la logica, la famosa impresa che si deve togliere i pavimenti, che è la sua specialità, e fare il verde esterno, per cui deve rivolgersi a un subappaltatore, non ha mica nessun cambiamento. Pensiamo poi al paradosso di una stazione appaltante che ci incischi su una variante e il giorno prima la scadenza dei termini dica: facciamo così, tu non fai un milione di opere esterne, fai in più un milione di opere interne. Variante zero, non c'è variazione di tempi, per domani mi dirà la finita l'opera. Capita anche questo. Lì sono 2 milioni di variante, non è una variante zero. Perché mi viene tolto un milione di opere, che evidentemente se mi è tolto non mi è stato lasciato fare fino a quel momento, e viene cambiato e aggiunto un milione di opere. Per cui dal mio punto di vista aziendale non è irrilevante se mi tolgono una parte e aggiungono un'altra parte di opere diverse. E quindi deve essere dato riscontro sia economico che di tempi. Ulteriore considerazione. Le varianti sono disciplinate anche dall'articolo 10 del regolamento del DM 145 del 2000 che avete come documento 25, che ripete quello che vi ho già espresso sul regolamento generale, e poi prevede una disposizione importante al comma 6. Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino nelle quantità dei vari gruppi di lavorazioni modifiche tale da produrre un notevole pregiudizio economico è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo dell'appalto. Sostanzialmente dice, se variano le lavorazioni e questo ti provoca una perdita che tu mi dimostri, un minor guadagno che tu mi dimostri, io ti riconosco un equo compenso. Sei specializzato in pavimenti, te li sto togliendo per farti fare qualcosa per cui tu ti dovrai rivolgere a un subappaltatore, avevi un margine buono sui pavimenti, te lo sto mangiando, ti riconosco un equo compenso. Qualora l'appaltatore non accetti le condizioni della variante economiche proposte dall'amministrazione, cosa accade? Due ore precedenti. Dovrebbe averlo trattato l'avvocato Robaldo. La situazione appaltante famosa dice non fare il pagamento, fai l'area esterna. Rimane nel 20% dell'importo totale, anche sommando la diminuzione più l'aumento. Dice, ti tolgo 100.000 euro per i pavimenti, ti do 200.000 euro in più per il verde e questa è la variazione. Noi dice, no, perché mi stai calcolando il verde a un prezzo che secondo me oggi non è attuale, in più mi togli i pavimenti che erano remunerativi, non mi riconosci l'ecocompenso, che faccio? Entro il limite del 20%? Non posso rifiutare di eseguire la variante, perché sono obbligato. Quindi faccio, esattamente, riserva al primo atto contabile successivo alla variante. La variante viene disposta con ordine del direttore dei lavori, approvato dalla stazione appaltante e codificato in un atto che si chiama atto di sottomissione, che viene sottoposto all'impresa per la firma, l'impresa firma con riserva e poi apporta la riserva al primo atto contabile successivo, al primo saldo successivo. Può accadere che in questo gioco di lavorazioni torte, aggiunte o sostituite venga introdotta per esempio una categoria speciale, una lavorazione rientrante in una categoria specializzata speciale e l'impresa che si è aggiudicata la gara non ha quella categoria? Sì, in questo caso occorre valutare se l'opera supera il 15%, l'opera speciale supera il 15% e non è quindi realizzabile in subappalto, la conclusione è che di per sé la modifica snatura il contratto, tanto che l'opera fino a oggi eseguibile dall'impresa da domani non lo è più e quindi si procede alla risoluzione. Non v'è altra possibilità perché l'impresa non può associare in corso d'opera un'impresa e subappalto è precluso. Se, come invece fisiologico, la variante che introduce la lavorazione, introduce una lavorazione non subappaltabile, cioè specializzata, che non supera il 15% e quindi è subappaltabile, l'impresa dichiarerà di subappaltare e subappalterà. Quindi questo è ammissibile. Come si calcola il quinto? D'obbligo, ci sono due diversi metodi a seconda che stiamo parlando di variante per errore progettuale e diversa variante. L'articolo 10,4 del DM 145, sempre il documento 25, stabilisce che per tutte le varianti diverse dell'errore progettuale si calcola come base per il quinto d'obbligo, l'importo originario più tutte le varianti che sono già approvate nel frattempo. Quindi diciamo che l'entità della variante ammissibile cresce in corso di esecuzione, perché dal contratto base si sommano le varianti. Viceversa, per quanto riguarda la variante per errore progettuale, si rimane fermi al valore del contratto originario. Per cui il limite di ammissibilità della variante progettuale è fermo a un quinto dell'importo originario del contratto, anche se nel frattempo sono intervenute varianti. Per gli altri casi di variante invece, calcolo del quinto, che ricordiamolo, è il calcolo dei limiti entro cui l'impresa è obbligata a effettuare la lavorazione, varia nel corso, può variare nel corso dell'esecuzione. C'è evidentemente un disfavore per l'impresa in questa disposizione, perché si subordina l'impresa ad assecondare, si impone all'impresa di assecondare variazioni via via sempre più ampie nel corso di un contratto d'appalto. Vi è poi una norma particolare relativa alle varianti in diminuzione. Quindi, indipendentemente dalle varianti resesi necessarie per ragioni tecniche e di rinvenimenti che abbiamo visto, la normativa lascia sempre all'amministrazione il potere di ridurre l'opera entro i limiti del quinto famoso. Quindi la stazione appaltante può decidere che l'opera venga completata solo fino ai 4/5 del valore del contratto, che rappresenta il limite del diritto dell'impresa. Al momento della sottoscrizione del contratto, l'impresa ha l'obbligo di eseguire la totalità dei lavori più l'eventuale variante, ma ha il diritto ad eseguirne solo i 4/5, perché l'amministrazione potrà pur sempre risolvere il contratto. Questo è il motivo per cui, quando si parla di recesso dell'amministrazione, come vedremo tra poco, e quando si parla anche di risoluzione del contratto per errore progettuale che comporta una variante superiore al quinto, all'impresa spetta il 10%, che è la percentuale di utile riconosciuta per legge, sino al raggiungimento dei 4/5 del valore del contratto. Se l'errore progettuale si manifesta dopo che l'impresa ha raggiunto i 4/5 dell'opera, la risoluzione sarà senza oneri per l'amministrazione, perché il 10% di quello che manca a raggiungere i 4/5 è zero, avendo già l'impresa raggiunto i 4/5 dell'importo contrattuale. La seconda ipotesi di variazione è rappresentata dall'articolo 11, che però temo non abbiate, l'articolo 11 del DM, del DM 145, ed è la norma in base alla quale l'impresa può proporre all'amministrazione delle varianti migliorative in diminuzione. Esempio, è stata progettata un'opera con una certa portata per i condizionatori. L'impresa, riesaminando il progetto e in corso di esecuzione, rileva che per garantire gli standard pretesi dall'amministrazione è sufficiente un condizionatore di portata minore. Evidentemente la variazione non trova, non è necessaria per la buona esecuzione dell'opera. È una possibilità ammissibile, senso dell'articolo 25, nella norma che consente di applicare tecnologie che non modifichino la qualità dell'opera e che siano funzionali al risultato. In questi casi l'impresa che propone all'impresa che propone deve essere riconosciuto un beneficio, altrimenti nessuna impresa proporrà mai di eseguire un'opera meno costosa. Prevede la norma, l'articolo 11 del DM 145, che la variazione proposta dà diritto all'impresa di ottenere la metà della differenza di prezzo così ottenuta. Quindi, studio, vedo che i condizionatori sono sovradimensionati, ti propongo di montare condizionatori di potenza inferiore, che costano 100.000 euro in meno, 50.000 li tieni tu amministrazione, 50.000 li prendo io impresa, senza eseguire un'opera corrispondente ai 50.000, ma per il risparmio che ti ho consentito di realizzare. Ben inteso, questa variazione deve essere approvata dalla stazione appaltante con le forme previste abitualmente da parte del direttore dei lavori e del responsabile del procedimento. Una confusione che talvolta viene fatta è tra condizioni di ammissibilità delle varianti che abbiamo visto finora e condizioni di ammissibilità dell'accordo bonario che avete visto prima. Talvolta l'amministrazione dice io non posso, il responsabile del procedimento dice io non posso approvare questo accordo bonario per riconoscere l'importo all'impresa perché a queste condizioni la variante non è ammissibile. Sono radicalmente diversi i presupposti e questo è da tenere sempre a mente nei numerosi casi in cui si affronta la tematica dell'accordo bonario. La variante è una modifica all'opera, l'accordo bonario è una transazione di un contenzioso. La variante è soggetta ai limiti dell'articolo 25, entro cui l'amministrazione può variare l'opera qualitativamente. L'accordo bonario muove dai normali presupposti di qualsiasi transazione. Quanto ha ragione l'impresa? Quanto delle pretese dell'impresa rischia di essere accolta da un giudice? Quanto ci costa il contenzioso? Se l'impresa ha avuto il lavoro rallentato da indecisioni della direzione lavori, evidentemente questo non è motivo di variante, ma l'impresa fa valere i suoi diritti con riserva, l'amministrazione rischia di pagare 100, si accorda su 30 e transige con l'accordo bonario. Sono indipendenti, i limiti delle varianti sono una cosa, ed sono i limiti allo ius variandi dell'amministrazione, l'accordo bonario è un accordo transattivo. In passato, con la disciplina previgente, si poneva un ultimo problema riguardante le varianti. Le varianti sono soggette a determinata procedura, cosa succede se questa procedura è messa in esecuzione ex post? Si diceva dalla giurisprudenza precedente, l'unica conseguenza dell'approvazione successiva è che la variante si considera approvata, ma l'impresa non ha diritto a pretendere gli interessi sul ritardato pagamento per il fatto che è stata approvata successivamente. Cioè, tu impresa esegui l'opera variata. Successivamente l'amministrazione approva la variazione, non mi puoi chiedere gli interessi per il periodo intercorso tra l'esecuzione e l'approvazione. Oggi il quadro è nettamente diverso, esempio di questa sentenza è la numero 28. Viceversa, oggi il quadro è differente perché la normativa, abbiamo detto, impone la preventiva approvazione della variante, articolo 134, comma primo. Se è preventiva, afferma l'autorità per i lavori pubblici, non v'è possibilità di successiva di perizia di variante in sanatoria. Questa è la posizione dell'autorità, è molto rigida. La prassi, devo ammettere, va in tutt'altra direzione, nel senso che le cosiddette varianti di assestamento, cioè a conclusione dei lavori, si valuta che cosa è stato fatto e lo si approva, sono la prassi. V'è da domandarsi se la posizione manifestata dall'autorità con la determinazione che avete sul 30 porterà in futuro delle conseguenze oppure no. Sinora la prassi dei varianti in assestamento non è stata modificata. Certo è che ove l'amministrazione poi incorresse in conseguenze ipotesi dinanzi alla Corte dei Conti per varianti in assestamento, si potrebbero cominciare a determinare questioni che oggi non si pongono. In ogni caso devo dire che qualora l'impresa esegua l'opera e la modifica sia poi approvata, perlomeno le spetterebbe il riconoscimento a titolo di indebito arricchimento e quindi corrispettivo decurtato dell'utile 10%. Questa è una soluzione che talvolta nei contenziosi viene prospettata. Purtroppo il tempo stringe, la fase di esecuzione è complessa e devo passare al subappalto. Il subappalto è quel contratto di natura derivata con il quale l'impresa appaltatrice affida ad un terzo, a un'impresa terza denominata subappaltatrice, una parte dell'esecuzione. Originariamente si distingueva tra diversi titoli di contratto derivati e si distingueva in particolare tra subappalto e il cosiddetto nolo a caldo. Il nolo a caldo è quel contratto con cui l'impresa pone a disposizione l'impresa titolare di determinati mezzi, pone a disposizione dell'appaltatore un mezzo, una scavatrice, con la persona incaricata di movimentarla. Questa distinzione è stata tuttavia superata dalla nuova definizione di subappalto che, sostanzialmente ricalcando quella che vi ho dato prima, equipara tutti gli effetti in oli a caldo rispetto ai contratti derivati di subappalto. Sto parlando dell'articolo 18 della legge 55 del 90, norma anche antimafia, e adesso vediamo perché. Comma 18, è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con cose in opera e in oli a caldo. Quindi in oli a caldo sono completamente equiparati agli altri contratti di subappalto. Perciò qualsiasi contratto derivato che prevede una lavorazione in loco in cantiere è considerato subappalto purché superi determinati importi che adesso andiamo a valutare. Come mai la norma è contenuta non nella normativa sui lavori pubblici, pur essendo modificata dalle varie merloni che si sono succedute, ma in una normativa antimafia? Per la stessa ragione per cui in Italia abbiamo una normativa stringente sul subappalto. Il subappalto per molto tempo è stata la possibilità per la mafia di insinuarsi nei contratti pubblici, perché le imprese in odore di mafia non potevano concorrere ai contratti, alle gare per l'affidamento dei contratti pubblici, quindi lasciavano che concorressero imprese pulite e poi ottenevano di poter eseguire comunque l'opera in via di subappalto. Questo è lo stesso motivo per cui le violazioni alla normativa sul subappalto sono sanzionate penalmente. Dicevo, contratto che preveda l'esecuzione di prestazioni in cantiere, purché superi determinati importi e purché la manodopera superi per valore la fornitura. La definizione, mi scuso per il fatto che sono costretto a leggere, ma appunto, sono considerati subappalti i contratti se singolarmente l'importo superiore al 2% dell'importo dei lavori, l'importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. Due domande. Perché richiede la prevalenza della manodopera? Perché la manodopera deve essere sopra il 50% dell'importo del contratto da affidare? no, dice, è un subappalto se il valore della manodopera supera il valore della fornitura o del mezzo noleggiato. Per quale ragione? Fatevi un esempio di quando questo non si verifica. Anzi, fatemi un esempio di quando questo non si verifica. È abbastanza semplice. Prima del noleggio del mezzo, un esempio più semplice che pone meno problemi. Quando un contratto non è subappalto perché la manodopera non è il 50%. Se io acquisto 10 tonnellate di mattoni, è un subappalto? No, evidentemente. È un normale approvvigionamento. Sarà una subfornitura soggetta alla disciplina sulle subforniture, soprattutto per quello che riguarda i pagamenti. Ma, evidentemente, posto che l'appalto è di lavori, io acquisto mattoni, non sto subappaltando la parte dell'esecuzione. L'esecuzione è di chi materialmente poserà i mattoni e realizzerà l'opera. Quindi è una differenza qualitativa. Non posso avere come subappalto di lavori, cioè se l'appalto è di lavori, il subappalto non può che essere di lavori. Se la manodopera non prevale, certamente stiamo parlando di qualche cosa di diverso. C'è un'eccezione correttamente individuata per una volta dall'autorità. Vi sono opere nelle quali la materia prima è molto costosa, ma di per sé inutile. Ad esempio, per la realizzazione delle strade, la manodopera costa meno del materiale bituminoso. Questo è un esempio che ho già fatto quando parlavo del contratto. Ma è evidente che se io ho un appalto di realizzazione di strade, non posso dire che non è subappalto la fornitura e posa di materiale bituminoso, perché è soggetto ad una trasformazione tale per cui non mi sto approvvigionando di un bene che poi io lavoro, ma sto facendo eseguire una parte dell'opera alla stessa impresa che mi fornisce materiale. Viceversa, sto realizzando un edificio, mi faccio recapitare le porte che devono semplicemente essere montate sugli infissi che io ho preparato, questo non sarà un subappalto, perché è una fornitura di materiale dove la componente di manodopera è del tutto marginale. La porta è stata realizzata fuori dal cantiere, mi arriva il prodotto finito, sono da montare, non è un subappalto. Quindi la prima condizione perché vi sia subappalto di lavori è che stiamo parlando di un contratto di lavori. La seconda, avete visto, è quantitativa. Il contratto di subappalto deve superare il 2% dell'importo dei lavori o i 100.000 euro. Qui si è aperta una tematica, per non dire di peggio, un dibattito sul fatto che le due condizioni, cioè i 100.000 euro e 2% da un lato e la prevalenza della manodopera, siano due condizioni che devono intervenire entrambe, oppure se sia sufficiente che in un appalto vi sia un subcontratto di un certo importo anche se non c'è la manodopera, o comunque che ha una prevalenza di manodopera anche se non supera quell'importo, perché si abbia subappalto. In questo senso, non poca confusione ha fatto l'ultima parte del comma 9. Per i subappalti o cotimi di importo inferiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà. Allora, il comma 12 dice è subappalto qualsiasi contratto che superi il 2% o i 100.000 euro. Il comma 9 dice i subappalti di importo inferiore al 2% o di importo inferiore a 100.000 euro hanno termini ridotti della metà. Come la mettiamo? Riuscite a ipotizzare una qualche risposta? Posto che i subcontratti che non siano subappalti per valore, cioè sotto il 2% e sotto i 100.000 euro, non sono soggetti all'autorizzazione. A questa norma che dice se sono sotto il 2% o sotto i 100.000 euro sono soggetti all'autorizzazione, ma allora sono diventati tutti subappalti purché vi sia la prevalenza della manodopera? Che mi dite? Tematica fondamentale, eh? Una tematica che in sede di esecuzione è fondamentale. Vedremo tra poco. Tutti i subappalti e non i subcontratti sono soggetti al limite del 30% complessivo del pagamento. Sono soggetti all'autorizzazione, sono soggetti a particolari requisiti che i subcontratti non hanno. Allora, come conciliate voi queste due norme? Cioè, avete una qualche idea che possa... Comma 9 successivo al comma 12, temporalmente. Cioè? O la prevalenza della manodopera, cioè anche alla fine questo basta, basta una dei due, una delle due. Per cui una fornitura di mattoni sopra il 2% dell'importo del contratto è un subappalto di mattoni. L'importo superiore al 2% del contratto è un subappalto. Non può essere, giustamente. Esatto. E allora come le conciliamo queste due disposizioni? Quindi è irrilevante la soglia, perché se sia sopra la soglia che sotto la soglia la manodopera è l'unica condizione perché vi sia subappalto, è inutile parlare di soglie. Ma allora il comma 9 ha abrogato il comma 12. Questo non ha soltanto questa previsione specifica. Cioè? Soltanto ai fini del rilascio dell'autorizzazione, dei termini, cioè una disposizione speciale, derogatoria in termini di... Ma che riguarda che cosa? I termini, cioè i tempi per il rilascio dell'autorizzazione. Quindi lei dice... Fondamentale. L'unica fondamentale è la prevalenza della manodopera. Non c'è più il criterio economico di valore se non per il fatto che sono abbreviati i termini sotto. Quindi il comma 9 ha approvato il comma 12. Ora io vi chiedo se una definizione contenuta in una norma antimafia che quindi delimita un reato può essere abrogato da una norma che si limita a stabilire un tempo di decorrenza dell'autorizzazione. A me ripugna abbastanza. Io vi dico come l'ho letta e come è stata avallata dal Consiglio di Stato, in sede cautelare ma con un'ordinanza motivata, che i requisiti devono esserci entrambi, cioè sia la prevalenza della manodopera che la prevalenza, che l'importo economico. Peraltro, se l'importo economico è superiore al 2% e ai 100.000 euro, per tutte e due le condizioni, guarda caso 100.000 euro sono il 2% di 5 milioni di euro, per cui c'è anche un parametro di interesse comunitario, l'autorizzazione matura in 30 giorni. Se supera il 2% ma non i 100.000 euro, oppure se supera i 100.000 euro ma non il 2%, abbiamo l'autorizzazione semplificata in 15 giorni. Infatti, l'ultima parte del comma 9 dice: per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 euro, non e di importo inferiore a 100.000 euro, o l'uno o l'altro, perché se sono di importo inferiore al 2% e 100.000 euro non c'è neanche l'autorizzazione. Se superano il 2% sotto i 100.000 euro, oppure superano i 100.000 euro ma sono sotto il 2%, ci vuole autorizzazione, perché si supera comunque uno dei due parametri economici dati dalla norma, ma non tutti e due, e quindi c'è un'autorizzazione semplificata. Sopra 2% e 100.000 euro, a quel punto ci vuole anche l'autorizzazione usuale. Perché ha ritirato fuori una vecchia nozione un po' a sproposito, molto a sproposito, perché una vecchia definizione del subappalto si estendeva anche al cottimo fiduciario. Il cottimo è quel contratto con cui i mezzi vengono messi a disposizione dell'impresa sotto la sua responsabilità, quindi io impresa appaltatrice mi procuro dei mezzi di un'altra impresa con un contratto di cottimo che pago a tot ora. È un subappalto, quindi rientra nella definizione di subappalto, per cui impropriamente è stato, teniamo conto che questa, come vedrete probabilmente dalle note, ci sono state modifiche tra il 91 e il 2002 di questa norma a catena, e certamente ne risente. La tecnica legislativa sull'articolo 18 era stato fatto in tutto in questi 15 anni. Entro quali limiti è ammissibile il subappalto? Innanzitutto è subappaltabile una parte di lavori della categoria prevalente solo entro i limiti del 30%. 30% della categoria e non del totale del contratto. Le altre categorie non prevalenti sono interamente subappaltabili, salvo che si tratti delle famose opere speciali, quelle tecnologicamente avanzate che abbiamo visto, che superino il 15%, nel qual caso il subappalto non è ammesso. Poi vi sono una serie di altre condizioni indicate dal comma 3. Deve essere stato indicato al momento dell'offerta. Domanda: in caso di varianti, che non riguardando l'offerta originaria non possono essere oggetto di dichiarazione di subappalto al momento dell'offerta, come si fa? Prego? In sede di variante si dichiara l'intenzione di subappaltare una parte o la totalità dell'opera. Una serie di adempimenti formali, deposito del contratto, deposito dei documenti comprovanti i requisiti, perché il subappaltatore deve avere i requisiti per poter svolgere l'opera affidata in subappalto, un limite di prezzo. I prezzi applicati dal subappaltatore non possono essere più bassi di quelli applicati dall'appaltatore alla stazione appaltante del 20%. Perché? Cosa interessa al legislatore? La quantità. Prego? Sì. La quantità dell'opera. Sì. Più che di lucrare è che se io ho fidato degli appalti presupponendo che un prezzo più basso di quello sia anomalo, ammettere che poi il subappaltatore lavori a più del 20% in meno è una dichiarazione di presa d'atto dell'anomalia. Infine, ultimo, requisiti di esecuzione, l'ultimo aspetto significativo della disciplina del subappalto è che dal momento in cui si presenta la relativa documentazione e la richiesta di subappalto, l'amministrazione ha 30 giorni per pronunciarsi. Se non si pronuncia, il subappalto si intende autorizzato, quindi silenzio assenso. Abbiamo visto ridotto a 15 nei contratti l'importo sotto il 2% ma non 100.000 euro, sotto 100.000 euro ma non sotto il 2%, ma non sopra il 2%. Domanda, se l'impresa non dichiara in offerta il subappalto, deve essere esclusa? Il bando di gara chiede all'impresa di dichiarare le parti dell'opera che intende subappaltare. L'impresa non dichiara nulla. Deve essere esclusa, secondo voi? Sì. Sì. No, è una condizione per subappaltare, ma la conseguenza del non averlo dichiarato è che non può subappaltare, non che non può concorrere all'appalto. Sentenza numero 31, poi confermata successivamente, 31 e 32, per cui le imprese che non indica l'intenzione di subappaltare non può per questo essere esclusa, a meno che, no, perché in quel caso è legittima clausola del bando che impone di dichiarare non intendo avere messo nel subappalto, perché è un'assurdità, e se non lo dichiaro sono escluso, è un'assurdità, la legge lo pone come condizione di ricorso al subappalto, non come condizione di ammissione, ma c'è un caso in cui questo porta all'esclusione. Esatto, se non hai requisiti per fare le opere e non può subappaltare perché non l'ha dichiarato, deve essere esclusa, ma in quel caso perché non hai requisiti di ammissione, non perché non ha dichiarato subappalto. Perfetto. L'amministrazione può prevedere che pagherà direttamente il subappaltatore, ove non lo faccia deve chiedere all'appaltatore di presentare le fatture quitanzate del subappaltatore, cioè pagare, dimostrare che i subappaltatori vengono pagati. Questa è una previsione della normativa vigente sul subappalto, in particolare l'articolo 18. Mi è capitato questo caso, e visto che la causa è in corso, lo formulo a voi. La stazione appaltante non si preoccupa di acquisire questi documenti del fattore quitanzato. L'appaltatore fallisce, il subappaltatore si trova esposto per aver eseguito dei lavori che non gli vengono pagati perché non ha il pagamento diretto e non gli sono state pagate. Ovviamente il subappaltatore si insinua al passivo, gli viene riconosciuta una percentuale irrisoria dei lavori fatti. Voi che fareste? qui non ho una risposta, nel senso che noi abbiamo fatto un qualche cosa, però, essendocela studiata, no? No, perché è un fallimento. E poi è stato pagato l'appaltatore. L'appaltatore è stato pagato. Esatto. Noi abbiamo agito per responsabilità extracontrattuale nei nostri confronti verso la stazione appaltante, perché ha omesso un obbligo imposto dalla legge di verificare che noi fossimo pagati. E da questa omissione è venuto che noi non siamo stati pagati per tutto il periodo successivo dei lavori. Vedremo come va a finire. Però è l'unica cosa che in questi casi può fare, e ci ho provato poi. Se avrò una risposta nei prossimi mesi vi dirò come è andata. I termini di pagamento delle fatture di subappaltatori sono scadati rispetto allo stato di lavoro. E questo può essere un escamotage per dire: in quel momento io non ero tenuto a esibire le fatture. Sì, una volta però. Ecco, domanda, la seconda? La seconda, cioè, se i subappaltatori che devono essere pagati dopo il primo SAL non sono pagati prima del secondo SAL o comunque prima del termine previsto da fatture immediatamente antecedente al SAL successivo, si interrompono i pagamenti perché l'impresa è inadempiente e quindi dalla stazione appaltante all'impresa sono interrotti i pagamenti. Inadempiente è un obbligo gravante per legge. L'unico caso in cui il subappaltatore ha comunque diritto ad azione diretta nei confronti della stazione appaltante è quando si tratta di un'impresa artigiana. Perché, da codice civile, i dipendenti dell'impresa hanno diritto di azione diretta nei confronti della committente. Quindi i dipendenti dell'appaltatore hanno diritto di azione diretta nei confronti della stazione appaltante. Ma gli artigiani subappaltatori sono considerati equiparati ai dipendenti e quindi hanno diritto di azione diretta. Se invece l'impresa è una società, questa azione diretta non è riconosciuta a meno che non sia prevista negli atti contrattuali. Questa è la disciplina del subappalto. Vi pongo un ulteriore quesito. L'impresa A, aggiudicataria del contratto, chiede di subappaltare i lavori che ha dichiarato di voler subappaltare all'impresa B, che è arrivata terza nella gara per l'aggiudicazione del contratto. Secondo voi può o non può? No, perché l'obbligo è di dichiarare le parti dell'opera che intende subappaltare, non c'è più l'obbligo di dichiarare le imprese. Non può. Per quale ragione? Ma se l'accordo successivo e poi ribalto, immaginiamo che ci siano delle parti che per qualche motivo tecnologico solo un paio di imprese possono eseguire e io precludo il subappalto a queste imprese di quelle parti dell'opera, a quel punto solo quelle due possono concorrere per l'intera opera. è possibile per l'amministrazione prevedere il divieto negli atti di gara secondo l'autorità. In realtà, posto che la normativa sul subappalto è una normativa penale tassativa, non è suscettibile di interpretazione estensiva, non pone un divieto di questa parte. O c'è un accordo a priori, e allora è illecito l'accordo, ma anche penalmente, ma se l'accordo a priori non c'è, non viene dimostrato, non mi si può essere preclusa la mia libertà aziendale di ricorrere a terzi. Tanto più che, afferma la Comunità Europea, subappalto è uno degli strumenti con i quali si può organizzare il lavoro d'impresa, anche addirittura ai fini dell'avvalimento. Dopodiché precludere il subappalto significa precludere, porre dei limiti alla libertà di impresa garantita addirittura dal Trattato UE. Per cui l'autorità afferma che il bando può imporre dei limiti. La provincia di Milano l'ha fatto, i ricorsi sono arrivati, la provincia di Milano immediatamente è tornata indietro e ha tolto la possibilità, ha tolto il divieto. Tenete presente che ci sono gare, ci sono 80 partecipanti, che vi sia un accordo di subappalto tra una di queste 80 che si aggiudica e un'altra di queste 80 che non si aggiudica l'appalto, non ha nulla di scandaloso. Questo non può finire poi sull'altro? Se l'accordo è preventivo sì, ma se l'accordo è successivo no, e anzi dicevo talvolta può consentire di aprire la concorrenza. Se vi sono poche imprese che possono eseguire tutta l'opera, o addirittura una parte significativa, siamo termovalorizzatori dove le imprese che avevano il motore, il termovalorizzatore sono due o tre, come ho già fatto un esempio che ho già fatto, precludere il subappalto a chi concorre vuol dire che quella gara è limitata ad Ansaldo, alla BB e alla Foster Wheeler. Invece ammettere il subappalto di quella componente anche a chi concorre consente di avere queste tre imprese in gara più altre imprese che eventualmente subappaltano il termovalorizzatore, una di queste tre. In caso di violazione della normativa del subappalto è prevista sanzione penale da una legge del 1982 successivamente modificata con nullità del contratto di subappalto per ciò della legge e sanzioni per entrambe le parti. Qui si pone un problema delicato per il subappaltatore, perché evidentemente la violazione della normativa del subappalto si ha soprattutto quando non viene chiesta l'autorizzazione, ma il subappaltatore non ha la possibilità di interferire su questa fase, quindi è opportuno, quando si è legali dei subappaltatori, ricordare alle proprie imprese che va sempre inserita la clausola per cui si obbliga l'appaltatore a chiedere l'autorizzazione e a far avere prova dell'avvenuta richiesta. Ricordiamo che entro 30 giorni matura il silenzio assenso, oltre questo il subappaltatore non può fare. Se arriva un diniego al 29° giorno, il subappaltatore potrebbe non saperlo mai, potrebbe serenamente lavorare, sento convinto che è maturato il silenzio assenso, in quel caso teoricamente c'è la violazione anche nei suoi confronti della normativa sul subappalto. In realtà lui è totalmente incolpevole e quindi non ne risponderà per assenza della componente soggettiva del reato. Viceversa ne risponderà l'appaltatore. Rapidamente sulla risoluzione sul recesso, purtroppo dovrò un po' correre, eventualmente quello che non facciamo oggi, se non vi dispiace lo rinviamo al 9 di gennaio in modo da non trascurare nulla, risento del ritardo della prima parte dell'incontro. Risoluzione e recesso, entriamo per quello che riguarda la risoluzione della patologia contrattuale. Sono disciplinati dall'articolo 118 e seguenti del regolamento di PR 554. Vi sono alcune ipotesi tipiche di risoluzione, in particolare la chiama risoluzione dei contratti per reati accertati, ma in realtà si tratta di una decadenza dell'appaltatore, perché viene meno una delle condizioni soggettive, cioè di non avere reati che precludono la prosecuzione del contratto. Nel senso dell'articolo 118, l'appaltatore, si dice il contratto è risolto, ma in realtà, ripeto, si tratta di una decadenza. Tant'è che l'appaltatore ha diritto solo al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Accanto a questa ipotesi, che è chiamata risoluzione, ma giuridicamente può essere equiparata ad una decadenza, abbiamo le ipotesi, diciamo, usuali di risoluzione corrispondenti all'inadempimento dell'appaltatore. Curiosamente si pone l'articolo 119 nel titolo grave inadempimento, gravi irregolarità e grave ritardo, laddove le irregolarità e il ritardo di esecuzione sono inadempimenti. Per cui in realtà l'articolo 119 è, a dispetto delle intenzioni di chi scriveva, l'articolo che riguarda la risoluzione per inadempimento. È ovviamente tipizzata la risoluzione e si prevede una contestazione degli addebiti con invito all'impresa di porvi rimedio e, riscontrata l'impossibilità o la non volontà dell'impresa di porvi rimedio, la risoluzione. La risoluzione per inadempimento può operare automaticamente nel momento in cui l'impresa superi con il ritardo un ammontare di penale pari al 10%. Quando il ritardo dell'impresa comporta applicazione del penale in misura superiore al 10%, la risoluzione è automatica e l'amministrazione può procedervi. Ovviamente l'amministrazione può non procedervi, ma se vi procede non ha necessità di particolare contestazione, constatando solo che si verifica questa circostanza. Ovviamente va contestata il ritardo, ma in questo caso vi sarà un motivo automatico di risoluzione, non dovrà esserci una particolare motivazione, ma si constaterà che il ritardo imputabile all'impresa, nonostante le sue giustificazioni, ha ecceduto l'applicazione di penali pari al 10% e quindi si procede alla risoluzione. Accanto alla risoluzione c'è un potere sempre riconosciuto alla stazione appaltante, che è poi una forma di applicazione di una analoga previsione contenuta nel contratto d'appalto civile, per cui l'amministrazione può sempre recedere unilateralmente dal contratto, il cosiddetto recesso ad mutuum. Quindi, articolo 122 del regolamento, la stazione appaltante ha il diritto di recedere qualunque tempo del contratto, previo pagamento dei valori dei lavori eseguiti, dei materiali esistenti in cantiere e del decimo dell'importo delle opere non eseguite. Ovviamente calcolato sui 4/5, perché è il decimo del valore del contratto che ancora manca al raggiungimento dei 4/5. Accanto alle ipotesi di inadempimento dell'impresa vi è ovviamente l'ipotesi di inadempimento della stazione appaltante. Sul punto l'ordinamento è un po' più tollerante rispetto a quello che è nei confronti dell'impresa, prevedendo all'articolo 26 della legge, per un verso, che agli appalti in caso di ritardo nei pagamenti si applichi un interesse che viene determinato con regolamento ministeriale, che oggi è pari a 7,125%. Anno. Per altro verso, che l'impresa può eccepire l'inadempimento di controparte, quindi far valere l'eccezione di inadempienti non est ad implendum, qualora l'importo non corrisposto raggiunga il 25%, cioè un quarto, dell'importo netto contrattuale. Qualora l'amministrazione non paghi addirittura il 25% dell'importo contrattuale, l'impresa può A. sospendere l'esecuzione, B, agire per la risoluzione del contratto in danno dell'amministrazione. In quel caso, così come in tutti i casi, esempio sospensione illegittima, contratto oltre il limite, esempio totale assenza di collaborazione alla stazione appaltante che rende impossibile procedere nei lavori, non chiede la concessione edilizia, capita pure questo, l'impresa non lavora senza concessione edilizia, grave inadempimento della stazione appaltante, azione di risoluzione del contratto per inadempimento. In questi casi la giurisprudenza riconosce il mancato utile nella misura del 10% senza togliere un quinto, cioè il 10% del valore del contratto integrale, non dei 4 quinti, perché dice giustamente la giurisprudenza, un conto è il potere legittimo dell'amministrazione di ridurre, ma se l'amministrazione ne impiede, allora il danno che ha provocato all'impresa prescinde dalla possibilità di ridurre o meno il valore del contratto e perciò sarà da riconoscere integralmente. Sempre in tema di inadempimento, ho già accennato alla penale. La penale negli appalti dei lavori pubblici si applica pro die. È prevista una penale giornaliera che può applicarsi sia ai lavori complessivamente da eseguire, sia a quelli delle varie fasi, ove queste siano previste ovviamente dal cronoprogramma del contratto. Per cui può essere prevista sia una penale per la conclusione di determinate fasi, sia la penale complessiva. Di solito i contratti che prevedono penali intermedie, cosiddette penali intermedie, prevedono anche che qualora l'impresa rispetti comunque il tempo complessivo, le penali intermedie si intendono assorbite e rinunciate, quindi viene corrisposto con quell'importo. L'importo della penale è compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille al giorno dell'ammontare contrattuale. Se è l'1 per mille, significa che in 100 giorni di ritardo maturerà il 10% che costituisce il limite massimo di penale ammissibile. Ovviamente la penale può essere disapplicata qualora l'amministrazione valuti che o l'impresa non è responsabile, ma in tal caso difetta una delle due condizioni dell'applicazione della penale, che è la colpa dell'impresa. O comunque anche qualora l'impresa sia responsabile del ritardo, l'amministrazione ravvisi che comunque questo ritardo non ha prodotto pregiudizio. Vi segnalo un aspetto che è fondamentale. La penale opera di per sé e quindi poi va valutata in rapporto al pregiudizio. Sapete che per principio civilistico la penale rappresenta l'accordo delle parti quanto al danno che viene provocato dal ritardo e se non è prevista la clausola che fa salvo il maggior danno, esaurisce il danno risarcibile. È sempre essenziale, quindi, se sia dalla parte dell'amministrazione, introdurre la salvezza del maggior danno, quindi applicazione penale salvo il maggior danno, perché in assenza di questa precisazione non v'è possibilità di risarcire il maggior danno. Ultimo aspetto, il collaudo lo rinviamo al 9 di gennaio. Accanto alla disapplicazione dei penali c'è il meccanismo della proroga dei lavori. L'impresa che non riesca a raggiungere, a completare l'opera entro il termine previsto, ha la possibilità, prima del termine dei lavori, di chiedere una proroga. Deve trattarsi evidentemente di cause non imputabili all'impresa. Molto spesso le proroghe vengono chieste per maltempo eccezionale, ad esempio, per il provocarsi di danni da maltempo inaspettate che costringono a rinnovare una parte dell'opera, per eventi magari riconducibili alla stazione appaltante. Se queste circostanze si sono verificate, hanno effettivamente inciso sull'andamento dei lavori, la proroga dovrebbe teoricamente essere riconosciuta. Se poi le ragioni risiedono nell'imputabilità all'amministrazione delle cause di ritardo dei lavori, l'impresa ha anche diritto alle relative maggiorazioni economiche. Io non ho potuto lavorare, ho tenuto in piedi un cantiere di più, mi spetta una maggiorazione. Quindi ti chiedo la proroga, tu me la dai, dopodiché io ti chiedo anche le maggiorazioni per la proroga. Purtroppo questo è il motivo per cui molto spesso le amministrazioni non concedono la proroga anche quando hanno torto e quindi sono colpevoli del ritardo nell'esecuzione. Rinvio il collaudo, mi scuso per questo differimento, approfitto del fatto di essere di nuovo io il 9 di gennaio, quindi brevemente all'inizio della lezione del 9 di gennaio tratterò anche del collaudo, dopodiché avremo chiuso la fase dell'esecuzione dei lavori e potremo dedicarci alle altre tematiche. Approfitto per fare a tutti gli auguri buon Natale e buon anno. Grazie.